conosco una garusa d'onde meda, e conosco una garusa d'onde meda, vicino casa mia, na vicino casa mia, vicino casa mia, stai e de casa, stai e de casa, stai e de casa, na vicino casa mia, stai e de casa. Cagini guardi te, cagini guardi te, te ne innamori, te ne innamori, te ne innamori, naga te li guardi te, te ne innamori. E proprio così bella come una stella, e proprio così bella come una stella, giuridi la vitina, giuridi la vitina. La vitiglia e cula quai, e cula quai, e cula quai, la giudini la vitiglia e cula quai. Onina di capiti, ritti di uri, onina di capiti, ritti di uri, la notte me li sonno, la notte me li sonno, la notte me li sonno allo cuscino, allo cuscino, allo. La notte me li sogno allo cuscino. Onina se mi piaci quando balli, onina se mi piaci quando balli, come balli te, naga come balli te, come balli te, io e tu faccio, io e tu faccio, io e tu faccio, come balli te, io e tu faccio. Chitarra tutta rotta, io tengo una chitarra tutta rotta, ma quando balli die, naga quando balli die, ca quando balli die meglio me zona, meglio me zona, meglio me zona, ca quando balli die meglio me zona. Onina quando tocchi lo strumento, onina quando tocchi lo strumento, na felici senti te, felici senti te, e io contento, e io contento, e io contento, na felici senti te, e io contento. Onina te lo dico anzi tutti, onina te lo dico anzi tutti, ca io te voglio bene, naga io te voglio bene, ca io te voglio bene, o io ti sposo. Io ne lo manda dire, io ne lo manda dire, il danno vuole, il danno vuole, il danno vuole, io te lo manda dire, il danno vuole. Onina nina nina mochi me piaci, onina nina nina mochi me piaci, lo sangue se scompia, na lo sangue se scompia, lo sangue se scompia per l'amore. Mo bell'amore, mo bell'amore.